9. Ascolta e controlla. Maria parla con Tommaso delle vacanze. Nella sua agenda, Maria ha molte informazioni necessarie per fare le prenotazioni. Lei non trova la sua agenda, ma questa è sulla scrivania, vicino al suo cellulare. Nell'agenda ci sono gli indirizzi email degli alberghi in montagna e Maria vuole prenotare in anticipo le camere per le loro vacanze. In garage ci sono gli zaini e Tommaso comincia a preparare le cose necessarie: lo slittino per lui e gli sci per sua moglie e la loro figlia Lisa.